Zibaldone. Zibaldone, Zibaldone, Zibaldone, Zibald, Zibald, Zibald, Zibaldone. Zibaldone, un programma in italiano non solo per italiani. Ogni venerdì dalle 18 alle 20 su Radio Contrabanda 91.4 FM a Barcellona. Zibaldone. Zibaldone. E buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati, ben ritornati qui sulle frequenze di Radio Contrabanda, una nuova puntata di Zibaldone dopo parecchio tempo di pausa, ma insomma noi ogni tanto torniamo come l'Araba Fenice con dei voli pindarici tra musiche, chiacchierate e anche molte cazzate, come ben sapete, e quindi sì, Zibaldone, lo sapete, un programma in italiano non solo per italiani, in onda tutti i venerdì pomeriggio dalle 18 alle 20 sulle frequenze di questa storica radio libera barcellonese, Contrabanda FM, in streaming all over the world alla web www.contrabanda.org e poi come sempre anche in podcast al nostro blog zibaldone.contrabanda.org. Oggi siamo alla fine del 2022 dopo insomma una pausa molto lunga che è cominciata alla fine di luglio ed è arrivata proprio alle porte di questa fine d'anno, alle porte di questo Natale. Abbiamo deciso di ritornare per una nuova puntata speciale natalizia, le canzoni di Natale, speciale numero quinto, perché è il quinto anno che lo facciamo, e quindi insomma godetevi questa selezione che vi accompagnerà durante le feste natalizie. Cominciamo con un classico, una voce indimenticabile, un grandissimo artista. Decorations of red on a green Christmas tree won't be the same, dear, if you're not here with me. And when the blue snowflakes start falling, your Christmas of white, but I have a blue, blue, blue, blue Christmas. Vabbè, l'avete sentito, l'avete capito, la voce indimenticabile, calda, meravigliosa di Elvis Presley, Blue Christmas, era il 1964, e però insomma prima di andare anche al secondo brano, di dirvi un po' di cose, voglio subito salutare, perché è un piacere di averlo qui in diretta fisicamente, ergonomico più che mai, il nostro mitico Banzo al secolo, Enrico Banzola. Banzo, bentornato a Zibaldone. Grazie Steven, buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutti. È bellissimo essere qui, ma anche se fosse solo bello sarei comunque contento. siamo tornati, c'è stato qualche piccola peripezia sulla quale non ci dilungheremo, e invece più importante spiegare, anche se è piuttosto autoevidente dal mio punto di vista, in che cosa consisterà questo speciale, per chi non lo sa. Si tratterà di canzoni di Natale. Uno dice che palle, no? E fin qui, vabbè. Però cerchiamo sempre di dare a questo concept abbastanza logoro e potenzialmente nefasto delle connotazioni interessanti attraverso una selezione di generi, di artisti abbastanza curiosa, che ci permette di saltellare allegramente fra le varie latitudini del mondo della musica, e sperando anche di darvi qualche piacevole sorpresa. Però abbiamo cominciato con un classico per andare sul sicuro. Ah vabbè, era questa la ragione. Bravo Banzo. Banzo è sempre con noi, preciso e puntuale come sempre. Ricordo solo ai nostri ascoltatori che questa non è appunto la prima volta che mandiamo in onda, che prepariamo uno speciale di canzoni di Natale qui a Zibaldone, ma insomma ci sono altre 4 edizioni previe, se non erro, quindi 2018, 2019, 2020, 2021. Abbiamo chiuso sempre le stagioni insomma solari di Zibaldone con questo tipo di speciale. Banzo, brevemente, insomma, sembrava difficile dopo il secondo anno trovare ancora delle canzoni belle, ironiche, particolari, e invece ne abbiamo finché vogliamo. E invece no, perché il mondo della musica natalizia, con mia somma sorpresa, è molto più vasto di quello che pensavo. Non ne abbiamo finché vogliamo, ma abbiamo comunque una scorta che ci permetterebbe di comporre alcuni speciali senza alzare un dito, al netto del fatto che poi ogni anno c'è un lavoro di ricerca che a volte mi spinge in degli abissi veramente oscuri e veramente vomitevoli, dei quali però cerco di portarvi solo la parte bella. Sì, la parte bella e dei prodotti meritevoli. Oh, Little Tony, Non è Natale senza te, il 1968. Io di questi bei regali che farmene non so, se questa sera poi sarò da solo senza te. Ma ti prego, torna qui, no, non è Natale senza te. Ho acceso le candele sull'albero per te, ma tutto è buio intorno a me se non ritorni tu. Ma ti prego, torna qui, no, non è Natale senza te. No, non puoi lasciarmi solo, ma perché ce l'hai con me? Ho tanto freddo al cuore, se non lo scaldi tu. Non voglio più regali, mi basta quel che ho. Il più bel dono io l'avrei se ritornassi tu. Ti prego, torna qui, senza te. No, non puoi lasciarmi solo, ma perché ce l'hai con me? Ho tanto freddo al cuore, se non lo scaldi tu. Non voglio più regali, mi basta quel che ho. Il più bel dono io l'avrei se ritornassi tu. Ti prego, torna qui, senza te. Non è Natale senza te. Ti prego, torna qui, no, non è Natale senza te. Non è Natale senza te, ai Banzo Banzo, la voce dell'Elvis Presley italiano, il nostro Little Tony. Era il 68, sono passati più di 50 anni. Beh, in effetti, non a caso Elvis Presley italiano, perché questa comunque è una cover in italiano di un brano di Elvis, Santa Bring My Baby Back to Me, dal Christmas album di Elvis del 57, che è stata incisa da Little Tony una decina d'anni dopo. E insomma, anche in questo si conferma un po', diciamo, l'Elvis di De Noartri imitazione, ecco, un po', perché incide una cover, quindi. Però si vuole molto bene a Little Tony, e Volevo anche dirti che un paio di mesi fa, per ragioni a me ignote, Facebook continuava a propormi l'iscrizione a gruppi di fan di Little Tony. Non so perché, però volevo tantissimo dire questa cosa. Chiediamola agli algoritmi, no? E chissà perché. Hai guardato tanti video di Little Tony, forse? No, non saprei assolutamente spiegare questa cosa, però... Chiediamo ai nostri ascoltatori, magari hanno delle dritte da darci. Gli algoritmi come la sfinge dei tempi moderni. Esattamente. Noi continuiamo perché abbiamo un sacco di brani in scaletta quest'oggi e rimaniamo in Italia. Banzo, vuoi dire qualcosa su questo brano o ce lo andiamo subito a sentire? Ma io ve lo farei sentire dopo, vi dirò solo che il gruppo, vi spiegherei dopo, vi dirò solo che il gruppo si chiama I Trovatori, perché comunque l'inizio è abbastanza sconvolgente secondo me. Allora ce lo sentiamo, eccolo qua, I Trovatori. Vabbè, Banzo, qui insomma un prog da chiesa, voglio dire, roba da casa e chiesa. Sì, con quell'intro che ho definito sconvolgente, perché per me è puro stile Doors, proprio... Assolutamente, rimanzare Cammanetta, direi, sì, lì, quasi no? Lisergico, e invece siamo in un ambiente chiesastico, come hai sottolineato, perché il disco fu pubblicato... Questo disco dei Trovatori, Natale Beat, così per non confondersi, fu pubblicato dalle edizioni Paoline, quindi l'ascendenza è chiarissima. Ed è curioso pensare effettivamente che si cercasse di portare il messaggio cristiano con questa ai giovani con questa musica che... Vabbè, insomma, eravamo nel 68 più o meno. Sì, sì, cioè nel senso anche la Chiesa era costretta a venire a patti con la modernità, forse più a di patti adesso. Con il diavolo. Con la musica del diavolo, esatto, al quale noi facciamo sempre i complimenti per l'invenzione di questo genere musicale. E vabbè, allora anche I Trovatori qui per scaldare i motori in questo inizio di puntata, in questo quinto speciale delle canzoni di Natale dello Zibaldone. Banzo, noi andiamo avanti perché rimaniamo sempre a fine anni 60, però cambiamo un po' l'attitudine. Esatto, perché questo brano dall'atmosfera dall'atmosfera indubbiamente messicana, ma c'è qualcosa sotto, come vi sveleremo dopo l'ascolto. Loro si chiamano Torero Band. Thank you. Banzo, ma chi sono questi Torero Band? Diciamolo un po' anche ai nostri ascoltatori, ma anche spiegalo anche a me, che lo voglio sapere. Ecco, come dicevo prima, si tratta di alcuni riferimenti un po' fuorvianti, perché i titoli della discografia della Torero Band contengono costantemente riferimenti a Tijuana, quindi uno penserebbe sono messicani, no, erano inglesi, ed era probabilmente un gruppo di area jazz che sostanzialmente cercava un po' di sfondare con questa novelty, con questo gimmick del Spanish, della musica un po' ispano-messicana genericamente. Ravanando sull'indispensabile Discogs, ho scoperto che hanno anche al loro attivo, e si trova tranquillamente su YouTube, un album di cover dei Beatles suonate con questo stile qui, in versione strumentale, neanche mezz'ora, ed è forse, nonostante la brevità, è forse comunque abbastanza forte da attraversare per intero. Vabbè, Silent Night l'avete riconosciuto ovviamente, visto che siamo in clima natalizio, insomma tra meno di 48 ore è Natale. Noi rimaniamo un po' sullo stile jazz, no? Con il prossimo brano. Esatto, si tratta di un brano che nel titolo non contiene riferimenti natalizi, ma poi vi spiegheremo perché, Skating, del Vince Guaraldi Trio. Eccolo qua, Vince Guaraldi Trio, godetevelo. Beh, però, Banzo, ascolta, insomma, diciamo anche le cose come stanno. Si chiamano Vince Guaraldi Trio, e la canzone si chiama Skating, non ci sono parole, ma insomma stai ciurlando un po' nel manico. Cosa ha a che fare questo brano con le canzoni di Natale, diciamo? No, assolutamente, non sto ciurlando nel manico, perché nonostante abbia ormai un'età ragguardevole non ho mai capito cosa significasse esattamente questa espressione. E comunque questo brano viene da una colonna sonora a tematica natalizia, cioè è stata la colonna tratto dalla colonna sonora, amico, del Charlie Brown Christmas, uno speciale natalizio del 1965 a cartoni animati, quindi, del quale il Vince Guaraldi Trio compose l'intera colonna sonora. Skating è uno dei brani, e su questo disco possiamo dire, a livello di curiosità, che è il secondo disco jazz più venduto della storia, con 5 milioni di esemplari. No, non più di Miles Davis, perché A Kind of Blue è il più venduto del genere. Però più di John Coltrane. Sì, beh, Coltrane però, insomma, era più ostico, ecco. Vabbè, certo, però più di Louis Armstrong. Sì, sì, ho detto secondo, quindi a meno di non aver letto informazione non veridica, sembrerebbe di sì. Ma magari era una fake news. In ogni caso, bello questo skating di Vince Guaraldi, ci ha portato davvero in una... proprio un po' da colonna sonora, è vero Banzi? Beh, effettivamente quello si trattava, quindi aveva svolto benissimo il suo compito. Molto, molto. Noi andiamo avanti e troviamo Teddy Van, ce lo andiamo a sentire, Banzi, e poi diciamo qualcosa, perché è una canzone anche questa che ha qualche... cioè, c'è un bel retrogusto, via. Sì, c'è un retroterra interessante del quale vi parleremo dopo l'ascolto. Allora, eccola qui, Teddy Van. Non vi dico nemmeno il titolo, perché sennò vi svelo l'arcano. You want to hear the vendetta this night? You know what I found you last night? Just when mama turned out the light, I went in the living room to see what the noise. Teddy Van, Santa Claus is a Black Man, ma Teddy Van, Banzer, accompagnato da una bimba che si chiama Hakim. Esatto, infatti il brano è accreditato a Hakim and the Teddy Van Production Company. E chi è Hakim? È la figlia di Teddy Van. Infatti diceva anche Daddy, no? In un momento. Daddy, esatto. E Teddy Van è probabilmente il compositore del brano. E è molto bella la copertina del singolo, con Teddy Van vestito da Babbo Natale e Hakim su uno slittino con il pugno chiuso, probabile riferimento alle Black Panther, quindi ci piace. Perché molto l'anno era il 73, quindi si sentiva queste sonorità un poco funky, no? Esatto, e la canzone bello. Probabilmente analizza con una certa ironia il problema di un bambino nero che cresce in un paese dominato da un immaginario bianco, ma appunto chi di solito chi è Babbo Natale, chi si veste a Babbo Natale? Il padre. E quindi il padre di questa bambina è ovviamente nero, e questa bambina dice: ma allora Babbo Natale è nero? Giustamente c'è la domanda. Ed è una riflessione appunto sul fatto che una porzione rilevante della popolazione statunitense non avesse nell'America mainstream modelli nei quali identificarsi direttamente. Eh sì. Noi adesso però ci spostiamo un po' al sud, perché insomma fa freddo, faceva freddo anche negli States, dove appunto cantavano Hakim e Teddy Van, e noi andiamo dove fa un po' più caldo in questo periodo dell'anno. Godetevi questo brano. Acho que Natal é esse, é o Natal brasileiro, amor. Acho que Natal é esse, é o Natal brasileiro, amor. Depois da missa do galo, parentes, amigos e convidados reunidos na mesma mesa, toda enfeitada com frutas tropicais. E no centro um cabrito assado, tempo todo recheado, espalhando farofa pra todo lado, pra todo lado. Acho que Natal é esse, é o Natal brasileiro, amor. Acho que Natal é esse, é o Natal brasileiro, amor. E lá fora os partideiros, Jorge da Piola, Neném da Cuica e Joãozinho do Pandeiro, representando os três rei magos, trazendo de presente o samba e a alegria pro terreiro. Pois o filho, um homem de Dona Maria, que acabou de nascer neste dia glorioso e sentimental, é a imagem do menino rei, é a alegria do Natal. É a imagem do menino rei, é a alegria do Natal. Mas que Natal é esse? É o Natal brasileiro, amor. Mas que Natal é esse? É o Natal brasileiro, amor. Depois da missa do galo, parentes, amigos e convidados reunidos na mesma mesa, toda enfeitada com frutas tropicais. Lindo centro, um cabrito assado, tempo todo recheado, espalhando farofa pra todo lado, pra todo lado. Que Natal é esse? É o Natal brasileiro, amor. Acho que Natal é esse, é o Natal brasileiro, amor. E lá fora os partideiros Jorge da Viola, Neném da Cuica e Joãozinho do Pandeiro, representando os três reis magos, trazendo de presente o samba e a alegria pro terreiro. Pois o filho, um homem de Dona Maria, que acabou de nascer neste dia glorioso e sentimental, é a imagem do menino rei, é a alegria do Natal. É a imagem do menino rei, é a alegria do Natal. Mas que Natal é esse? É o Natal brasileiro, amor. Mas que Natal é esse? É o Natal brasileiro, amor. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Pá, pá, pá, pá. Vabbè, Natal brasileiro, Banzo, che Natale esse, no? Non so, bisognerebbe chiederlo a lui, perché non ero in Brasile per il Natale del 1978, che è l'anno d'uscita di questo brano di Jorge Ben, che bravo, cominciò Jorge la Ben. Sua carriera nei primi anni 60 con la samba Esquema Novo, cioè nuovo stile, e qui era già arrivato a una sintesi, diciamo, samba rock abbastanza... E come, si è sentito, eh? abbastanza travolgente. E beh, d'altronde è anche bello, dicevo, andiamo al caldo, ecco, un posto in cui ci è venuta voglia di ballare. Esatto, il Natale in estate. Tu non ti tenevi sulla sedia, ti ho visto. L'atmosfera è diversa. Sì, effettivamente non abbiamo fatto il trenino solo per due ragioni: perché siamo solo in due e perché non siamo negli studi di Buona Domenica, Domenica In, quella roba lì. Vabbè, chiameremo Maraveniera. Ascolta Banzo, noi rimaniamo nel mondo, diciamo, ispano-portoghese, però dall'America Latina veniamo un po' in qua, veniamo anzi molto vicino a noi, qui in Spagna. Esatto, è un salto abbastanza coraggioso, ma bisognava farlo. Vi proponiamo un brano natalizio di Julio Iglesias, poi vi daremo ulteriori spiegazioni. No, non vi diciamo altro, sentitevelo qua, godetevelo, perché comunque è un bel brano. No llores más, vida mía, que llega la Navidad. San José y María traerán un burrito orejón cargado de turrón. San José y María vendrán y en un burro orejón por aquí pasarán. No llores más, mi guaguita, que estoy amasando el pan. Pan con miel y la humita fiel calentita está en la sartén. Vendrán en un burrito caminito de bebé. Amados los dos, amados, amados del niño Dios. Por aquí vendrán y te besarán al llegar la Navidad. Amasando el pan, mazapán con miel y la humita fiel, calentita está en la sartén. Vendrán en un burrito caminito de bebé. Amados los dos, amados, amados del niño Dios. Por aquí vendrán y te besarán al llegar la Navidad. Por aquí vendrán y te besarán al llegar la Navidad. En un burrito orejón, era il 1970, Banzo, questo brano di Julio Iglesias, che, voglio dire, è un brano un po' particolare per lui, non per l'arrangiamento, che era bello, c'era dietro questa orchestra, ma per il testo. Sì, perché non era comunque un brano autografo, bensì un villancico, cioè un canto natalizio tradizionale. E infatti di questo burrito orejón si trovano molte versioni. Io nelle mie ricerche mi sono imbattuto in almeno due dello Chalchaleros y los Trovadores del Norte. Che non sono quelli trovatori, quelli che abbiamo sentito prima. No. Non sono neanche parenti, perché si tratta di due gruppi argentini. E comunque in queste versioni degli anni 60 c'era un taglio, diciamo, più corale, più tradizionale, che probabilmente si avvicinava all'originale, al canto originale. Invece questa versione dagli arrangiamenti lussuosi, con il tipico cantato di Julio Iglesias, direi in spagnolo con mucho desparpajo. Assolutamente. E, insomma, non possiamo farvi sentire le altre versioni, però c'è un salto veramente notevole. Sì. Rimaniamo in Spagna con un altro brano. Non vi diciamo nulla, Banzo, lo mandiamo subito, che ne dici? Sì, dirò solo che per me è molto bello. Oh, vabbè, dai, lo dico anch'io e ce lo sentiamo. Señora María, el niño que nació ayer, Nuestra Señora María le viene a ver en este día de invierno frío al crío que nació ayer. Cuánta gente, Señora, camino de Belén, pastores, vecinos, qué alegría, los magos de Oriente también. Se diría, Señora María, que el crío desnudo que ha dado a luz y que está entre la mula y el buey es el rey de Jerusalén. Rey Jesús, Jesús de plata de Galilea, mírame, soy yo, ojalá ya. Oh Jesús, Jesús de oro de Jerusalén, despiértame, si en sueños lloro. Señora María, que el crío desnudo que ha dado a luz y que está entre la mula y el buey es el rey de Jerusalén. Oh Jesús, de porcelana de Belén, quiéreme, que soy tu hermano. Oh Jesús, de palo santo de Oh Jesus, qua siamo veramente a una cosa un po' strana, Banzo, perché c'è un po' di prog rock, c'è un po' di insomma, cosa c'è qua? C'è tantissima roba, veramente. No, c'è tanta roba, ho capito che a te piace molto questo brano, questo, su questo sono completamente d'accordo con te, no? Però, le Vainica Doble erano comunque un duo di estrazione folk, però avevano attivo fin dai primi anni 70, però hanno sempre avuto, non so fino a che punto volontariamente, un certo approccio obliquo laterale che le ha fatte poi diventare diciamo paladine mentrici dell'indie spagnolo. Infatti incisero anche l'ultimo disco del 2000 per la Elephant, una storica etichetta indie rock spagnola. E insomma, diciamo che il testo potrebbe sembrare quello di un villancico, però io appunto nell'arrangiamento, nell'interpretazione, anche se siamo nel 72 e il franchismo è ancora in corso, io già vedevo dei germi, vedo in questa canzone dei germi di cambiamento. Di movida? Sì. Di movida. Un po' sì. Non cioè so, un po'... di movida, però comunque di cambiamento della Spagna, ecco. Sì, ci sono tutti. Noi però adesso invece facciamo un volo pindarico, davvero, un salto della quaglia, no? Sì, queste scalette sono, diciamo... Continui salti della quaglia. Favoriscono questo tipo di situazione, però ho cercato sempre di dare una logica al tutto. E comunque torniamo in Italia con un brano molto molto vecchio di Giorgio Gaber, 1961. Ai primi anni. La cartolina colorata. Eccolo qua, Giorgio Gaber, sentiamocelo un po'. Vediamo un po' che ci dice il vecchio e buon Giorgio. Purtroppo un giorno dicemmo niente, niente, piuttosto niente, che continuare così. E quel giorno tutto finì. È passata un'estate, è passato un autunno, s'avvicina il Natale e oggi ho ricevuto una bella cartolina colorata. Ma perché me l'hai mandata? Ricordi un giorno dicemmo niente, niente, piuttosto niente, che continuare così. E quel giorno tutto finì. È passata un'estate, è passato un autunno, e per farti gli auguri oggi ho comperato la più bella cartolina colorata, ma non te l'ho mandata. L'ho guardata un istante e son partito per la tua città. E qui è un Giorgio Gaber Banzo che ha lasciato un po' da parte, no? Ha superato un po' quella prima tappa più rock and roll, no? Che insomma, proprio 59-60 l'aveva fatto conoscere in Italia. Beh sì, basandosi sulle atmosfere del pezzo è evidente, è una ballata molto intimista, peraltro con un testo dal bellissimo, finale aperto. È molto bello, eh? Scritto da Maria Monti, col quale vabbè, all'epoca Gaber aveva anche una relazione sentimentale. E a me sorprende anche per la modernità, perché stiamo comunque parlando di un brano del 1961, di una coppia che si guarda negli occhi e si dice niente, niente, piuttosto niente, che continuare così, che è un incipit fulminante. Non è proprio l'incipit, però è da quel momento da cui prende le mosse la storia della canzone. Eh sì, bello, bello, bello questo brano. Bravo Banzo, la cartolina colorata, 1961, in realtà, no? In realtà qui bisogna ringraziare il nostro Fausto De Sarria. Facciamolo subito. Che, come al solito, dall'Italia ci dà un contributo fondamentale. Grazie, nella selezione Fausto. Dei brani. Grazie Fausto. Noi andiamo avanti perché non diciamo nulla su questo brano, ce lo andiamo subito ad ascoltare. Che diciamo dice? Solo che restiamo in Italia. Sì, ecco, quello sì, però nient'altro, eh? No, nient'altro. Oh, eccolo qua. Sentitevelo un po', vediamo se capite chi canta questa canzone. Tanti auguri pure a voi, grazie. Auguri a tutti quanti. Oggi è Natale. Auguri, auguri. Compagna da galera, oggi è Natale. Facimmo tutto quanto, guardiglianza. E stai ornato sim. Tutte uguali, eppure di sta guerra non avanza, guarda un amico senza la fa meno supplimenti vino e che sti festa non ci può negare. Stanotte per rispetto non va bene, compagna non mi posso ribellare. Ma che sta amica che mi sta vicina rimane sola sola a già parlare. Mio caro amico regolando con te a t'ammalata di essere da stanza, dice Covina era pigliato e spunto, è fatta croce che non c'è speranza, fama carogna non ti posso lavare. chiamato secondina, a ci dovevi sta amica mia che non beveva vino, sta stesa in terra e non voglio parlare, e siamo attenti in capo marcia per a sora mia che lancia le bontà, a se ci sono bambina è nata ieri, oggi sta fino all'ora aveva fatto. Chiamato secondine, beh, Banzo, Banzo, e qui devi darci delle spiegazioni perché insomma io ho colto la voce che è quella di Mario Merola. Esatto. Gli anni direi che siamo, boh, è un po' fuori dal tempo, ma direi anni 70, la butto lì. 1974, oh, bravissimo Steve. Bene, bene. Il testo ho capito solo alcune cose, magari ecco, dacci tu una dritta. Diciamo per cominciare che il brano si intitola Natale in galera, ecco, quindi qualcosa avevo colto. È chiaro, il secondino potrebbe farci avere il supplemento di vino, non provo la pronuncia napoletana per rispetto. E qui insomma è il classico stile di Mario Merola, siamo il revival della sceneggiata napoletana con un brano composto da nomi importanti della chi sono? Musica napoletana, testo di Vincenzo Acampora, autori di brani come Vierno interpretata da Claudio Villa, Fausto Leali fra gli altri, e Pasquale Gallifuoco che ha composto fra le altre musiche O Divorzio, che presentata al Festival di Napoli del 1970 da, vi chiederete, da chi? Da Franco Franchi, senza Ciccio, quello del famoso duo. Quindi Franco da solo? Sì, erano siciliani, non peraltro, non sapevo che cantasse. Esatto, e questa l'anno prossimo la mandiamo? Abbiamo, non so se ha riferimenti natalizi, no. Però abbiamo comunque faremo uno speciale sul divorzio? Esatto, per commemorare il referendum abbiamo aperto un nuovo tunnel da esplorare. Vabbè, noi andiamo avanti, Banzo, perché adesso c'è un altro brano, rimaniamo in Italia. Con un altro salto incredibile. Sì, ma diciamo qualcos'altro, no? O mandiamo subito questo brano, che dici tu? Ma diciamo che è del 1993 e per il resto vi lasciamo il gusto della sorpresa. Vabbè, allora dai, andiamocelo ad ascoltare immediatamente, va. Caro Babbo Natale, non ci sentiamo da parecchio, comunque lo stesso adesso prestami orecchio, una richiesta. E se ti resta tempo senti, anche perché mi devi ancora un big gym, una pianola a buon tempi. Non ho risentimenti ma tuo creditore resto, dunque ho un pretesto per richiederti un gesto. Fallo in sesto di radio TV a Natale, dirigilo tu e fai qualcosa di speciale. Non il solito mix dei puffi di Asterix con la cantilena di Cristina Ravena. Ridammi furia Nico Fidenco, uccidi puffi. Voglio vedere un incontro di box fra Tyson e Bossi. Voglio che i personaggi di Beverly Hills abbiano tutti bisogno del Clerasil. Voglio vedere la Cuccarini con un mini bikini per un martini, sentendo Tocca qui cantata da Masini. Perché è Natale, ma io non ci sto dentro. È Natale, è Natale, è Natale, ma io non ci sto dentro. È Natale, è Natale, è Natale, ma io non ci sto dentro. È Natale, è Natale, è Natale, ma io non ci sto dentro. Sono già due mesi che sento odore di mandarino e di aghi di pino e ne ho la nausea. Pubblicità del panettone senza pausa, assediato da nevicate di mandorlato. In cucina mia madre chiusa già da un mese, poverina, si sbatte di brutto lavoro come un somaro albanese. Ha fatto tra l'altro anche 8 kg d'arrosto. Nel miglior dei casi mi trovo a mangiare gli avanzi fino ad agosto. Mi sento indisposto, sarà perché ho mangiato caramelle sotto costo. Piuttosto faccio posto nello stomaco un bicchiere di peanut, mentre lo bevo mi atteggio come il tipo dello spot. C'è lo bot in televisione, dannazione. Adesso posso dire addio alla mia digestione. Cambio canale, fatale, appare il telegiornale che fra una guerra e l'altra mi fa gli auguri di Natale. È Natale, è Natale, ma io non ci sto dentro. È Natale, è Natale, è Natale, ma io non ci sto dentro. È Natale, è Natale, è Natale, ma io non ci sto dentro, è Natale, è Natale, è Natale, ma io non ci sto dentro. Da me non è mai venuto, forse perché il camino in casa non ce l'ho mai avuto, forse non riesci a tirare sui tetti perché ci sono troppe antenne, forse gli han chiesto il superbollo sulle renne, forse ha paura di qualche scippo, magari è flitto perché lo scambiano per il gabibbo, ma per me da qualche parte in Equatore, che se la vive da nababbo coi diritti d'autore, suona il campanello, è arrivato prete benedire, passa ogni stanza, bagna le pareti d'acqua santa, guarda me che sono sveglio da poco e dice che per gli esorcismi passa dopo, lo congedo con flemma, mi viene in mente di dilemma, se il Natale che viviamo è cristiano pagano o come quello americano con le letterine dei bambini, ma non a Babbo Natale, ma i grandi magazzini ed è Natale, perché è Natale, ed è Natale, ma io non ci sto dentro, è Natale, lo so, è Natale, però è Natale, ma io non ci sto dentro, è Natale, è Natale. Che volo pindarico banzo che ci hai fatto fare in questo caso, perché voglio dire, siamo passati di colpo dagli anni 60-70, dove stavamo così bene, devo dire la verità, io stavo proprio bene, e ci hai portato di colpo ai primi anni 90, fine della Prima Repubblica, si citava perfino Bossi. Esatto, e soprattutto vi ho fatto passare in un colpo solo da Mario Merola agli articolo 31 che è veramente una delle transizioni più ardite della storia della radiofonia. Ma infatti sai i voli pindarici come finivano in genere? Sto guardando il pavimento mentre ecco, ti rispondo, ecco, quindi ecco. Sì, so come finivano. Ecco. Vabbè, insomma, gli articolo 31, è Natale ma io non ci sto dentro. Molto anni 90 anche questo titolo. Sì, molto milanese tra l'altro. Molto milanese, ma inevitabile perché loro sono milanesi, certo. E comunque c'è una quantità di riferimenti culturali all'Italia di quel periodo, la che... Cuccarini, Nico Fidenco, poi che altro c'era, non so se non ricordo. Nico Fidenco come menzione dell'infanzia. Sì, certo. E beh, l'incontro di box fra Tyson e Bossi, è che quella è la cosa molto... migliore forse. Che purtroppo non c'è mai stato, se nel caso qualcuno se lo chiedesse. E adesso forse non è il caso. No, adesso non, insomma, è un po' passato in prescrizione. E comunque sì, è un brano che ho voluto selezionare perché c'è questa bella ingenuità degli anni 90, a pensare che sono passati quasi 30 anni, perché appunto è un brano del 93 e che gli articolo 31 stanno per ritornare a Sanremo nel 2023. Beh, non faccio commenti al riguardo, comunque lo scopriremo solo vivendo, come diceva un tale. Sì, quel tale lì, esatto. E noi adesso facciamo un altro volo pindarico, mi auguro di non schiantarmi di nuovo. Beh, volo pindarico solo perché torniamo negli Stati Uniti, perché comunque restiamo più o meno in zona hip hop con... un brano di Wing Clipper. Che cazzo è, scusa Banzo? Esatto, non è famosissimo. Ah, ecco, effettivamente. Okay. Allora, non è la mia ignoranza sull'hip hop. È un produttore hip hop dell'Illinois che gestisce un'etichetta che si chiama Inhaling Brainwaves. E questo è tratto da un brevissimo mini di 10 minuti di beat su basi natalizie. Vabbè. E quindi, che altro c'è da dire? Niente, ce lo andiamo a sentire? No, ce lo andiamo a sentire, ma diciamo il titolo che è... Little Star. Little Star. Ah, e allora eccola qui, Little Star. Preparatevi. Christmas was the happiest time of the year for everyone. Stringing popcorn, tying little red bows on the limbs of the tree. Oh, goodness gracious, it was so beautiful. Thank you. il governo. Nonostante i mondiali di calcio, il bonus cultura per i diciottenni non verrà abolito ma modificato, con il pugno nello stomaco. Creativo, l'esperto, è sempre importante se è pensato. Il ministro San Giuliano avrebbe avuto un diverbio con un fegato tra il rosso e il bordeaux. 11 milioni gli italiani in partenza nonostante il tempo incerto, tutti alla ricerca di sacchi di banconote a casa della vicepresidente del Parlamento Europeo Eva Kaili. Anche una pelle volutamente invecchiata e 7.000 jeans slavati pagati ad Antonio Panzeri e famiglia per preservare le famiglie che fanno fatica ad arrivare a fine mese. Il seducente presidente turco Erdogan tenta l'avvio di una nuova mediazione. Da nessuna parte. Meloni incontra i capigruppo di maggioranza e poi i sindacati nel metaverso per accertarsi che non siano navi di ONG e chiarisce non voleva lasciare il locale all'ora di chiusura per trasformare il vecchio in nuovo. PNRR sarà rimodellato e legato all'ISEE della Moldavia. I tempi stringono per la manovra da approvare entro fine anno, nonostante pioggia e rincari. Un 57enne inizia a sparare sui suoi social frasi deliranti e intrise di odio per ridurre gli oltre 3.000 emendamenti e tornare al Reich se la temperatura sale troppo. Poi si scopre ufficialmente che non ha il cazzo. Il sottosegretario Fazzolari è buon segno, vuol dire che non pende da nessuna parte. Bimbo di un anno in arresto sospettato di avere 1.000 euro nello stomaco, ma non ne ha visto nemmeno uno. Il padre si trattava di un piccolo dono. A Natale i carabinieri quasi sicuramente non saranno invitati in famiglia. Siamo qui ancora una volta, siamo sicuri che adesso si svolta. C'è il bando che strapparla fuori onda, occhio che il capo s'arrabbia, radio contrabbanda, siamo in onda, Steven fa la domanda, siamo qui ancora una volta, siamo sicuri che adesso si svolta, c'è il bando che strapparla fuori onda, occhio che il capo s'arrabbia, radio contrabbanda, siamo in onda, Steven fa la domanda. Radio contrabbanda, siamo in onda, Steve fa la domanda. Non potevano mancare, non potevano mancare le ultimissime, anche se quest'oggi è la puntata specialissima delle canzoni di Natale. Che bello riascoltare le ultimissime, anche perché Banzo, sono successe, stanno succedendo così tante cose surreali e dadaiste, se vogliamo dire le cose positive. Su Berlusconi ne avremmo tante da dire, però vabbè, che insomma le ultimissime ci volevano proprio. Sì, però forse Steven ha un po' perso l'allenamento perché, sai, le ultimissime ci sballottano sempre in situazioni imprevedibili. E ma è tutto fatto, vero quello che dicevano. È tutto verissimo, ma ho fatto veramente fatica a non perdere il filo. So che ci sono 11 milioni di italiani che sono partiti alla ricerca dei sacchi di banconote a casa. Della... Ma appena finisce la puntata andiamo anche noi, no? Sì, non so, siamo 11 milioni e 2 sì, siamo. Ma io andrei. Sì, non lo so, poi bisogna vedere chi se li tiene questi sacchi di banconote. Però in questo schema di corruzione che riguardava anche la vicepresidente del Parlamento Europeo ci sono anche 7.000 paia di jeans slavati che sono stati dati al questi non li voglio, membro del Parlamento. Sì, insomma, 7.000, poi no, insomma, vabbè, che ce ne facciamo molto. Vabbè. Poi insomma, tante notizie che hanno a che fare con San Giuliano, la Meloni. Vabbè. San Giuliano, quello dei Negramaro. No, sì. Aspetta, mi sono confuso. Ma magari fosse lui il ministro della cultura, no? Beh, insomma, diciamo che la base di partenza è bassa. Sì, sì, sì. E, beh, c'è questo 57enne con le frasi deliranti sui social, poi si è scoperto ufficialmente, questo è importante, che non aveva il cazzo. Vabbè, forse è meglio così. Io non voglio usare questo turpiloquio, però qui stiamo solo riportando le dichiarazioni testuali dell'annunciatrice, quindi insomma non possiamo farci nulla. Vabbè, comunque voglio dire, dall'Italia del 2022 e da quella del 23 non mi aspetto di meglio. Io mi aspetto di peggio, effettivamente, quindi sì, direttamente. Vabbè. Ascolta, Banzo, ci siamo scordati di dire che Wing Clipper, il brano Little Star, era del 2021, quindi è fresco fresco. 2021, quindi ve lo proponiamo a un Natale di distanza. E invece andiamo avanti, adesso ritorniamo alla nostra, alle nostre canzoni natalizie e cosa troviamo adesso, Banzo? Con un brano in realtà molto poco natalizio, come scoprirete, salvo per un riferimento del titolo, si tratta degli Everybody Tesla, dopo non vi spiegheremo chi sono, e questo brano si intitola... Mamma, per Natale voglio la cassetta dei Sangue Misto. Vabbè, io no, invece, però ci ascoltiamo in ogni caso questo brano. Eccolo qui. Mamma, per Natale voglio la cassetta dei Sangue Misto. Vedi un po'. Everybody Tesla. Banzo, questo brano io so che l'hai scelto tu perché ti piacciono queste cose, dai, ammettilo. Era un po' inascoltabile, però era anche particolare, insomma, era molto da 7 del mattino in un locale, non so, del Levante, tra Valencia e Alicante, durante la ruta del bacalao. No, in realtà l'ha scelto il nostro Fausto, ma io l'ho assecondato con molto piacere. Si tratta di Everybody Tesla, duo elettronico sardo. Ah, sono sardi. Ah. Dalla brevissima vita, perché hanno inciso un unico EP. Chissà perché. Nel quale non è stato incluso questo brano che... Manco nell'EP l'hanno messo. Faceva parte di una compilation gratuita, Polaroid for Christmas 2010, del blog Memoria Polaroid. Degli Everybody Tesla si può dire che, ad esempio, uno dei due membri col nome di Ale Kiddel continua a incidere, è stato pubblicato anche dalla nostra amata Trova Robato. E che, insomma, alla fine del brano c'era il presidente del Senato, Ignazio La Russa, che diceva... Quando non era ancora presidente del Senato. Esatto, perché è un'apparizione alla vita in diretta del 2009, e diceva cose che ci aspettiamo che lui dica, che non staremo a ripetere, perché non... No, ne abbiamo già abbastanza quest'oggi. Esatto. Andiamo avanti e torniamo negli States. Andiamo subito ad ascoltarci questo brano, Banzo, che si intitola Christmas Eve Eve. Doppio esatto, IVA. No, no, sì. Non è io che mi sono ripetuto. No, no, così. È la vigilia della vigilia. Vabbè, andiamo a vedere allora com'è questo 23, effettivamente. Di Paul and Storm. Ah, Paul and Storm. Although it's not a holiday per se, it's just the day that is the day before the day before the day that is the best day in the world. The 24th is Christmas Eve, the 25th is Christmas, and the 26th is Boxing Day and marks the feast of Stephen. But the 23rd is mostly spent just marking time until the earth rotates around its axis once again. Today we sing the praises of December 23rd. Though no one else would seem to give a damn. It's just the day that is the day before the day before the day that is the best day in the world. Too late for office parties and you're done with Secret Santa, but too early to go driving off to grandma's through the snow. And metaphorically speaking, it's the next to last minute, so you still have one more shopping day to go. Today we sing the praises of December 23rd, 'cause if we don't, nobody ever will. It's just the day that is the day before the day before the day that is the best day in the world. It's just the day that is the day before the day before the day that is the best day in the world. Beh, è carina questa canzone, Banzo. Loro come si chiamano? Paul and Storm. Ah, è vero, l'hai detto, è vero, bravo. Si tratta di un duo di comedy music che non è esattamente, come dire, musica demenziale, no. Però insomma ha testi di carattere umoristico. E questo era umoristico, effettivamente. Effettivamente, no? Perché ci spiega... questa sera, praticamente, questo 23 dicembre. Esatto, ci racconta perché a nessuno importa del 23 dicembre, perché è soltanto una tappa d'avvicinamento al miglior giorno del mondo, cioè il 25 dicembre, e non è la vigilia come effettivamente il 24. Questo spiega il titolo Christmas Eve Eve, cioè la vigilia della vigilia di Natale. Il testo era carino, eh? Esatto, basta sapere l'inglese e si entra. Deve avere un po' di pazienza. Esatto, perché ad esempio io col testo in portoghese ho fatto un po' fatica. Noi andiamo avanti e rimaniamo sempre nel mondo, diciamo, anglosassone, anche se andiamo in un posto che in genere non abbiamo credo mai toccato in Zibaldone in 15 anni. Il Galles. Oh, che era anche i mondiali. Sì, però ho fatto una magra figura. Male. Un mondiale, ecco, a ridosso di Natale, appunto. Viviamo in un'epoca di paradossi. Lasciamo perdere. Loro si chiama, o lui si chiama? Lui si chiama Groove Reese. Oh, Post-Apocalypse Christmas. Beh, esatto, 2011. Tra l'altro è molto adeguata alla congiuntura internazionale nella quale viviamo. Sì, al futuro imminente. Andiamocela a sentire. Sentiamo un po' che ci racconta questo gallese. The first Christmas of the post-apocalypse Christmas, and the snow was falling as you reached out with a kiss. Post-apocalypse Christmas, post-apocalypse Christmas. Christmas. Ascolta, Banzo, dopo gli Everybody Tesla questo brano era proprio radiofonico, era gradevole, no? Che dici? Sì, comunque parla di un Natale nei bunker, perché vabbè, intanto è cominciata l'apocalisse, però la musica non siamo lontani. È estremamente easy listening e orecchiabile. E Groove Reese è un personaggio, ho dici un po' qualcosa la su pronuncia lui, perché essendo un nome gallese hai va fatto a bene, affidare. Hai fatto bene. È un personaggio che forse è meno noto come solista, anche se ha una carriera già sostanziosa, fra l'altro un disco interamente cantato in gallese che mi sono andato ad ascoltare sommariamente, il suono del gallese mi lascia sempre scioccato. È stato il leader dei Super Furry Animals, gruppo che negli anni 90 aveva goduto di una certa notorietà. E comunque, appunto, anche solo per la tematica della canzone, visto che nonostante una parte della politica si ostini a negare il cambiamento climatico, insomma, vista la tematica della canzone, mi sembrava giusto inserirlo in questa selezione. Adesso andiamo avanti e torniamo agli anni 80, sempre mondo anglosassone, e qui troviamo una band, sono una band, vero? Sono una band. Sì, che hanno un nome bellissimo. Sì, metà uomo e metà biscotto, no. Cioè half man, half biscuit. E anche il titolo della canzone non è niente male. Che vi traduco per comodità, da questo brano del 1987, All I Want For Christmas Is A Dukla Prague Away Kit, cioè... Tutto ciò che voglio per Natale è una divisa da trasferta del Dukla Praga. Oh, vi darò qualche spiegazione dopo l'ascolto. E ce l'andiamo a sentire. There was one in the gang who had scale extra, and because of that he thought he was better than you. Every day after school you'd go round there to play it, hoping to compete for some kind of championship. But it always took about 15 billion hours to set the track up, and even when you did, the thing never seemed to work. It was a dodgy transformer again and again, a dodgy transformer again and again. It was a dodgy transformer again and again, a dodgy transformer that cost £3.10. So he'd send his doting mother up the stairs with the stepladders to get the Subutio out of the loft. Had all the accessories required for that big match atmosphere, the crowd and the dugout and the floodlights too. You'd always get palmed off with a headless centre forward and a goalkeeper with no arms and a face like his. And he'd managed to get hold of a Dukla Praga away kit, cos his uncle owned a sport shop and he kept it to one side. And after only 5 minutes he'd be down to 10 men, cos he'd sent off your right back and taking the face from under his left winger. And come to half time you were losing 4-0, each and every goal a hotly disputed penalty. So he'd smash up the floodlights and the match was abandoned, and the dog would bark and you'd be banned from his house. And your travelling army of synthetic supporters would be taken away from you and thrown in the bin. my gyro every 2 weeks, and me, I'm on the lookout for a proper transformer. Oh, ma sono veramente British questi, ragazzo mio, eh. Sì, English, poi più inglesi della regina, sì, sì, sì, più che British English, hai ragione. E insomma, ci sono un sacco di riferimenti al calcio. Sì, però non è una cosa strana per questa band. Allora, dicevamo, la divisa della trasferta di Dukla Praga è per giocare al subbuteo, che viene menzionato nel testo. Tra l'altro io conoscevo solo lo Slavia, lo Sparta, il Dukla non è che ce l'avevo proprio presente. Esiste anche il Dukla, ebbene sì, però questi, oltre a essere tifosissimi di una squadra delle divisioni minori, inglese o ceca? Inglese. Sono comunque dei fanatici di calcio. Per darti un riferimento, in un altro brano viene citato Lonved Budapest, cioè cose anche abbastanza esoteriche. Perché chi non sarebbe è... bello sapere se magari hanno dedicato una canzone al Castel di Sangro. Non credo, ma sarebbe bellissimo. E non credo, perché in realtà ho trovato un sito che raccoglie tutti i loro testi, e c'era anche un grafico che raccoglieva i testi per tematica, e c'era una menzione di tutti i riferimenti calcistici su più di 200 canzoni. Italiani nessuno? Non credo, per quello che ricordo no, e comunque sì, sono dei conoscitori, cioè hanno quella malattia del calcio estremamente inglese e britannica, soprattutto inglese, ma diciamo che avevano anche interesse per il calcio come fenomeno globale, perché insomma in quel periodo, parliamo di fine anni 80, le squadre dell'est erano esotiche. Eh sì, assolutamente. Ascolta, visto che in genere il calcio in Inghilterra si vede nei pub e si bevono delle gran birre, noi adesso non a caso abbiamo scelto una canzone che in fin dei conti è anche un buon Natale per i bevitori. Esatto, ci spostiamo dall'Inghilterra alla Scozia, quindi saliamo. E all'inizio della canzone viene citata l'ora di chiusura dei bar, non a caso. Si tratta di un brano dei Ball Boy, un gruppo scozzese, 2013 la canzone, diciamo area indie. La canzone si chiama Merry Christmas to the Drunks, Merry Christmas to the Lovers, e appartiene un po' a quel filone delle canzoni natalizie malinconiche, perché adesso abbiamo un po' rivisitazioni di canzoni tradizionali, quelle un po' più ironiche, ma c'è anche la canzone natalizia malinconica, della quale questo brano è un esempio perfetto. Allora ce la sentiamo. In the cold air, crowds wait on corners for taxis that don't appear. I am here with you tonight. Hold my hand, take me home for Christmas. Lay me down neath the tree. Arrange all the presents around my feet. Lay me down neath the tree. See if I'm sober by morning when you appear. I am here with you tonight. There's a change in the air, there's a frost in the ground. Let the new snow fall down and cover our tracks. The mistakes of the past, the mistakes of the past can lie buried for Christmas. And I am here with you tonight. Hold my hand, take me home for Christmas. Merry Christmas to the drunks, Merry Christmas to the lovers, Merry Christmas to us. I'm here with you tonight. Hold my hand, take me home for Christmas. Merry Christmas to the drunks, Merry Christmas to the lovers, Merry Christmas to the drunken lovers. Merry Christmas to the drunks, Merry Christmas to the drunken lovers, Merry Christmas to us. And I am here with you tonight. Take my hand, take my hand for Christmas. Eh beh, dai, questa Banzo mi è quasi venuto voglia di innamorarmi ascoltando questa canzone. Ballatona, effettivamente. Ballatona, bella comunque. Sì, e loro sì. Dove sono? Scozzesi, ah, vero, l'avevamo detto, di Edimburgo per la precisione. Ah, guarda te, farà freddo adesso lì, eh? Sì, sono quelle canzoni, diciamo, si presta l'atmosfera malinconica perché, insomma, in Scozia il c'è tempo poca luce, il tempo insomma, non è dei migliori. No, no, no, no. Vabbè, andiamo avanti perché ci rimane ancora più o meno una mezz'ora ampia di programma, abbiamo ancora una carrellata di canzoni, adesso andiamo su un classico cantato da un artista conosciuto. Esatto, torniamo in un'atmosfera più tipicamente natalizia con una cover del brano di Paul McCartney, Wonderful Christmas Time del 79, interpretata dal canadese Mac DeMarco in un 45 giri, che è stato pubblicato solo su un 45 giri per il suo fan club, quindi ha avuto una circolazione. Una sì, esatto, una chicca, e l'atmosfera è abbastanza minimale e personalmente migliora questa canzone, che non è nella versione la più di bella Paul. La più bella del songbook di Paul McCartney, diciamo. Questo è vero, dai, ce la sentiamo. Is right, the spirit's up, we're here tonight, and that's enough. Simply having a wonderful Christmas time. Simply having a wonderful Christmas time. The party's on, the feeling's here, that only comes time of year. We're simply having a wonderful Christmas time. Simply having a wonderful Christmas time. The choir of children sing their song. Ding dong, ding dong, ding dong, ding. Oh, oh, oh, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, did it, did it, did it, oh. Wonderful Christmas time. Simply having a wonderful Christmas time. The party's on, the spirit's up, we're here tonight, and that's enough. Simply having a wonderful Christmas time. The choir of children sing their song. They practiced all year long. Mood is right, spirits up, we're here tonight, that's enough. We're simply having a wonderful Christmas time. Simply having a wonderful Christmas time. Beh, dai, bisogna dire la verità, Banzo, che non è male questo brano, eh? È un particolare, quasi non ricorda neanche la versione originale di McCartney, però è proprio anche il bello delle cover. È il bello delle cover, tu sai che io combatto questa battaglia da secoli, e se dobbiamo tornare in atmosfera natalizia con queste canzoni appunto esageratamente natalizie, facciamolo con stile, e questa versione del classico di Paul McCartney proposta da Mark DeMarco, secondo me è piacevole. Banzo, rimaniamo un po' sulle cover, perché adesso c'è una cosa molto particolare. Esatto, l'ho trovata completamente a caso e me ne sono innamorato all'istante. Vi posso dire, vi presentiamo dopo, vi spieghiamo, perché non vogliamo, vi spieghiamo dopo, non vogliamo rovinarvi la sorpresa. Diremo solo che è una cover della famosissima Last Christmas degli UM del 1984. Ecco, però a voi il piacere da scoprire. Esattamente, andiamocela a sentire perché è molto, molto, molto particolare. Last Christmas, love tore us apart, but the very next day, the new dawn fades. This year, in this atmosphere, I'll walk away in silence. Last Christmas, love tore us apart, but the very next day, the new dawn fades. This year, in this atmosphere, I'll walk away in silence. So this is Christmas, love's shattered pride. What once was innocence has turned on its side. Tell me, baby, why's the bedroom so cold? It's been a year, where's your heart and soul? Happy holidays, the procession moves on. Now I realized how it's all gone wrong. I know to you I'm a means to an end, but if we dance to the radio, I'd lose control again. Last Christmas, love tore us apart, but the very next day, the new dawn fades. This year, in this atmosphere, I'll walk away in silence. Last Christmas, love tore us apart, but the very next day, the new dawn fades. This year, in this atmosphere, I'll walk away in silence. Banzo, devo dire che questo è un brano fantastico, mi è proprio piaciuto, e devo dire anche che l'80% mi auguro, anzi il 99% avranno anche riconosciuto, insomma, questa cover con chi giocava un po', eh. Esatto, perché alla fine c'era anche una citazione del giro di basso di Disorder, così giusto per aggiungere legna al fuoco, era chiaramente un omaggio ai Joy Division più che agli UM. Sì. Vabbè, questo mix comunque è particolare, è bello. E diciamo anche qualcosa su questo Joy the Wham, che è il nome, no, dell'artista. Sì, allora, sì, viene perché presentato come Joy to the Wham, però si tratta di un'uscita digitale, l'ho trovata su Bandcamp, in realtà l'autore si chiama Alex Reed, non sono in grado di fornire moltissima informazione, però... Vabbè, già sappiamo il nome. Ha comunque sulla sua pagina Bandcamp alcune canzoni sempre di genere comedy, ma si definisce anche songwriter, quindi anche cover mashup di questo tipo un po' strani. Questa canzone, cioè, amore immediato, perché, insomma... I Joy Division sono i Joy Division, e è veramente straordinaria la riproduzione dello stile e la quantità di riferimenti ai testi, che insomma, se conoscete un po' titoli dei Joy Division, avrete riconosciuto numerosi, ed è bellissimo anche nella presentazione grafica, perché diciamo che c'è la caratteristica immagine di Unknown Pleasures con le onde che vengono tramutate in un albero di Natale, ecco. Bello. Bella cosa, questa mi è piaciuta molto, mi hai fatto venire anche una gran voglia di riascoltarmi un po' i Joy Division, che da parecchio che non li ascolto. Così, per avvicinarsi un po' all'allegria natalizia. Ma assolutamente, perché no? Prima abbiamo parlato di divorzio con Merola, no? Adesso parliamo anche di altre cose. In ogni caso, e bando alle ciance, noi andiamo avanti perché troviamo un'altra cover di un artista, in questo caso sì, molto, molto, molto conosciuto, e una cover però particolare. No, beh, insomma, si tratta di una cover dei Vandals, quindi non so fino a che punto... No, ma è particolare perché è stata fatta subito dopo l'originale, praticamente. Esatto, si tratta di un brano dei Vandals del 1996, riproposto nel 1997 dai No Doubt di Gwen Stefani. Ve la facciamo sentire e poi vi raccontiamo qualcosa. Dai, diciamo il titolo, Banzo. Ah, giusto, avevo dimenticato che il titolo è Oi to the World! Yeah! Loro sono i No Doubt, un bel pezzo, insomma, un punk allegro, dai. Dai fortissimi riferimenti ska, perché sì, i No Doubt avevano, prima di diventare famosi, avevano cominciato come gruppo ska puro, però appunto, dicevo, questa è una cover dei Vandals, che diciamo descrive uno scenario, benché i Vandals fossero californiani, molto inglese, di lotta fra punk che si picchiano, ma poi lo spirito di Natale e l'unità della scena trionfano. L'unità della scena, per chiunque abbia frequentato il punk e l'hardcore, è un po' un feticcio inevitabile. E appunto sì, c'è questo scarto fra l'originale, che è appunto più oi punk, e qui la versione No Doubt con queste tonalità ska, un po' ska, sì. E è curioso perché appunto, come dicevamo prima, c'è un anno di differenza fra l'uscita dell'originale e della cover. Infatti l'originale è uscito proprio in un album natalizio dei Vandals, e probabilmente è molto più famosa, non famosissima in termini assoluti, ma molto più famosa la cover dell'originale. Ma rapidamente, che fine hanno fatto i No Doubt? Beh, si sono separati, poi riuniti, ma adesso penso che siano separati definitivamente. Diciamo che ho visto anche un video recentemente sulla storia dei No Doubt in un canale americano. Sono stati un po' cannibalizzati dalla fama solista di Gwen Stefani, che è diventata una pop star a tutto tondo, un'imprenditrice, e un po', diciamo, che non c'è stata unità della scena, ecco. Vabbè, andiamo avanti, Banzo, perché adesso c'è un'altra cosa molto particolare e credo che ci sia bisogno di una tua introduzione e spiegazione per goderci bene questo brano, che tra l'altro è brevissimo. Ecco, esatto, qui la spiegazione secondo me va prima. Allora, si tratta di Young Snowmans, con errori di grammatica incluso, e il brano si intitola Bing Crosby Wrote Festive Christmas Songs. Ecco, qui Madonna, va veramente spiegato, perché questi Angry Snowmans sono un gruppo canadese che si dedica a fare versioni natalizie di pezzi hardcore punk. Anche nella, nelle grafiche ci sono citazioni di copertine famosissime, gli Adolescents, i Germs, i tuoi amati No Means No, per esempio. Bene. E quindi qui, presto spiegato, è una cover in chiave natalizia della mitica Bob Dylan Wrote Propaganda Songs del 1980 dei leggendari Minutemen, uno dei gruppi più straordinari della prima ondata hardcore, perché per una quantità di motivi che insomma sarebbe lungo spiegare: l'etica DIY, la straordinaria tecnica strumentale, il formato delle canzoni ipercondensate. È comunque un gruppo che io adoro e sono contento di essere riuscito a portare un po' di sbieco a Zibaldone. Ah, dai, allora ce l'andiamo ad ascoltare. Angry Snowman's Bing Crosby Wrote Festive Christmas Song. Un brano molto breve, ma un brano bello strong. So che a te piacciono queste cose, Banzo, quindi sono molto contento che sei riuscito a infilarlo, come tu hai ricordato poc'anzi. E comunque evviva i Minutemen per Giove. Oh, ma anche i No Means No. Ascolta, andiamo avanti perché siamo davvero ormai quasi agli sgoccioli, ci rimangono ancora alcuni minuti. E che cosa c'è adesso? Abbiamo un po' il filo. Dimmi un po'. Abbiamo una cover surf di Surfers, un canto natalizio catalano, i Tarraco Surfers. Detta così è un po' particolare la cosa. Sì, esatto, abbiamo questi Tarraco Surfers, che sono una cover band di Tarragona, perché Tarraco è il nome romano della città, l'antico nome romano. Si vestono effettivamente da antichi romani e la canzone è appunto Fum Fum Fum al 25 da dezembre, che è forse il canto natalizio catalano più noto, in una versione veramente molto frizzante. In veste surf. Allora ce li andiamo a sentire, eccoli qua, i Tarraco Surfer. Vabbè, proprio un pezzo surf 100%, Banzo. Bella selezione, questo mi è piaciuto anche. Mi è venuta una gran voglia di andare a ballare. Esatto, comunque veramente la grammatica surf, gli elementi ci sono tutti. Mi dispiace che magari per chi ci sente dall'Italia questo brano probabilmente non suonerà familiare, ma qui in Catalogna è ubiquo in questo periodo dell'anno, perché è veramente un canto natalizio vecchio di secoli che fa parte della tradizione locale. Ascolta, a volte il Natale piace, a volte il Natale non piace, a volte le cene di Natale insomma sono un momento che tutti aspettano, in altri casi proprio no, insomma. Però spesso sono anche un po' una rottura di coglioni, e comunque diciamo che tutta la retorica che accompagna questa festività può risultare indigesta, come ci raccontano gli Spazio Bianco col brano Natale di Merda, titolo molto esplicativo, del 2010. Sono espliciti loro, no? Sì, adesso sentirai anche nel prosieguo del brano che insomma, allora non risparmiano niente. Allora ce lo sentiamo. Sta arrivando un altro Natale di merda, con le lucine, le canzoni di merda, e non mi frega stare. Io non voglio pranzare con chi vuol domandare se ho trovato lavoro, se ho trovato l'amore, e ti trovo sciupato e ti trovo ingrassato. Sta arrivando un altro Natale di merda, con i cugini e i nipotini di merda. Sciarpa, guanti e cappello, no io non sono quello, tombola 7,5, forse sembrerò pazzo, ma piuttosto m'ammazzo. Voglio solo mia madre, voglio solo mio padre, voglio solo il mio cane, senza cori e campane. Intanto Cristian fa l'altro film, mentre tu campi. Beh, Banzo, devo dire la verità, la domanda è ovvia, è scontata, però è anche spontanea. Insomma, ma chi è sto Christian? Christian De Sica, no? Sì, cioè, avevo immaginato, però dico, aspetta che me lo conferma il Banzo, sì. Esatto, perché il brano è del 2010, quindi prima dello scisma storico Boldi De Sica, che non so neanche se si sia ricomposto, perché c'erano vicende dell'Italia. Poi avevano fatto, agli anni 90, devo dirti la verità. Avevano fatto un film post-lockdown, del quale ho visto. Sì, non lo so. Chiediamo se c'è qualche ascoltatore in onda che ci vuole contattare e ci spieghi un po' queste cose, se no cerchiamo noi su Wikipedia, perché immagino che questo ci sarà. Cosa? Informazioni sui cinepanettoni. Sì, sì, beh, no, sicuramente. Però se qualche ascoltatore però vuole possiamo dire, specificare, ecco, diciamo che questa canzone non so moltissimo del gruppo, non è chiaro esattamente chi siano. Spazio Bianco, no? Sì, c'è ci sono poche informazioni su di loro, no. Ho trovato il loro canale YouTube, ci sono pochi brani. Ma c'è anche un videoclip, no, di questa canzone? Sono singoli. Nel video di questa canzone c'è un tizio vestito da Babbo Natale con una maschera di carta di Christian De Sica e... appunto c'è questa critica sociale, nel senso di problemi, la gente precaria, anche un po' un tanto al chilo, diciamo. Uh-huh. Però Christian fa un altro film, ecco, perché nel 2010 appunto nessuno metteva in dubbio il fatto che sarebbe arrivato un nuovo cinepanettone del Magico Duo e il mondo andava avanti, ecco, senza immaginare quello che sarebbe poi successo, come ad esempio, non lo so, il Covid o la stessa separazione di Boldi e De Sica, che sembrava un evento impossibile. Vabbè, sì, ma dopo 40 anni, vabbè. Ascolta, Banzo, adesso facciamo l'ultimo, praticamente, o il penultimo volo pindarico, no? Esatto, passiamo dall'Italia a... la Svezia però con un prestigioso ospite americano per un brano natalizio piuttosto inedito del 2008, inedito non nel senso che non è una cover, ma diciamo che è curioso per le sue circostanze, ecco. Spiega un po'. Ma diciamo che sono gli Hives, un gruppo garage rock svedese, bravi loro, sì. Ma potremmo rivelare soltanto a fine brano chi è l'ospite. In questo duetto. Esatto. E ci andiamo a ascoltare. Il titolo della canzone lo possiamo dire? È Christmas Duel. Ah vabbè, proprio un duello allora. Esatto, eh? Non un duetto ma un duello. È un duello, allora ci andiamo a sentire. Eccoli qua, gli Hives. Slept with your sister. I know I should have thought twice before I kissed her. But with the year we had last and the dress that she wore, I just went along for the ride. And I came back for more. And I'm sorry, baby. That's all okay, honey, 'cause see, I bought new trees this year, and I slept with your girl. You thought I was over, right? But I was strong. listen, 'cause something strong this holiday season. So whatever you say, it's all fine by me. And who the fuck anyway wants a Christmas tree? 'Cause the snow keeps on falling, even though we were bad. It'll cover the field. We should both just be glad. And spend this Christmas together. Beh, qua è proprio tra 60 e Very Rocker, Banzo, questo brano, eh? Cosa dici tu? Esuberantissimo. Esuberante. Direi. E comunque Cyndi Lauper, caspita, gran voce. Esatto, eh? Non l'avevamo specificato, l'ospite misterioso era Cyndi Lauper. No, bravo, bravo, bravo. Che in Spagna, ve lo diciamo, dillo, nel caso dillo, mi interessi, continua a essere oggetto di culto principalmente per quella canzone lì, cioè Girls Just Wanna Have Fun. Vabbè, ma in poi tutto il mondo, che dai. Che si sente, sì sì, però è incredibile la frequenza con la quale la sento ancora in riunioni conviviali. Pensavo alle riunioni di lavoro, no? No, no, conviviali, ah, no, festicciole, un'altra parola, qui dalle nostre parti. Guateques. Guateques, sì, ah, come direbbero qui in Spagna. E beh, la storia dietro la canzone forse è meno interessante di quanto sembrerebbe. Allora, gli Ives hanno cominciato a scrivere questa canzone, boh, immaginiamo nel 2007, perché è comunque uscita nel 2008. E si sono resi conto che era adatta per fare un duetto e hanno detto: beh, ci piacerebbe farlo con Cyndi Lauper. Perché no? Via. Poi non sappiamo esattamente come siano andate poi le trattative, ma sono andate comunque a buon fine perché l'abbiamo Cyndi Lauper è apparsa, abbiamo sentito la canzone, voce squillantissima. Beh, io consiglierei gli Ives per il Natale 2023 di fare un brano con Sabrina Salerno, per esempio. Non lo so se come no? genere musicale, ecco, perché lei era più di area dance, Sabrina Salerno, però fai bene a citarmi Sabrina Salerno perché è un altro personaggio che forse per la sorpresa di alcuni italiani continua a essere di culto, anche se stranamente se dici Sabrina Salerno spesso non sanno di chi tu stia parlando, ma se dici solo Sabrina capiscono benissimo come. Che si tratta dell'interprete di Boys Boys Boys, sì, un famoso video in Spagna dove lei cantando in una diretta televisiva aveva mostrato il seno, no? Esatto. Senza volerlo, esatto, però insomma si ricorda forse insomma non tanto per i meriti canoli, perché succede molto spesso con le pop star. Allora, noi siamo arrivati a fine puntata, siamo proprio agli sgoccioli, ci rimane solo il tempo per salutarvi per un ultimo brano, insomma, comunque dire che è finito questo 2022 e nel 2023 Ziballone riprenderà con la frequenza del passato e non di questi ultimi mesi dove eravamo un po' scomparsi dalle scene, quindi da questo punto niente di più niente di meno, augurarvi un bellissimo fine 2022, un buon inizio, insomma buone feste, fate i bravi, godete, ve la divertitevi e preparatevi perché dopo il 6 di gennaio ritorniamo a bomba con Ziballone. Sì, c'è comunque un ultimo brano da un sentire po', prima di salutarci. Andiamo cioè in Francia. Da presentare prima di salutarci. Andiamo in Francia, andiamo un in Francia, abbiamo girato un po' il mondo. E dunque si tratta di un brano tratto da una colonna sonora di una produzione franco-italiana uscita nel 1968 in Italia col titolo La Fred Alba del commissario Joss. Il brano si chiama Noël 67, non so se la pronuncia. Eh sì, è Natale 67. Esatto. E abbiamo Michel Colombier con il grandissimo Serge Gainsbourg. Esatto, e come riconoscerete, insomma, il brano ha qualche riferimento natalizio anche nella musica. Allora ce l'ascoltiamo. Niente di più, niente di meno, fate i bravi, fate l'amore con il sapore, come era solito dire il primo sindaco socialista di Madrid, Enrique Tierno Galván. volevo augurare in particolare agli 11 milioni di italiani che sono partiti alla ricerca di quei saldi, sacchi di soldi a casa della vicepresidente del Parlamento Europeo, di trovarli. Eh vabbè, magari ce ne porti neanche un po'. Banzo, grazie di essere stato con noi, fai il bravo, ci vediamo nel 2023. Grazie a te Steven, all'anno prossimo che è vicinissimo. E allora, Michel Colombier, Serge Gainsbourg, Noël sua Sunset.